CQ, canale 10. Sono qua, così mi dai un controllo qua. 1, 2, 3, 4, chi è avanti? Eccomi! Sì, già hai fatto un po' colestro. Ah, va bene, non è che l'ho girato, piano piano l'ho girato. E via. E vabbè, devo scendere le scale però. Già. Già è così. Bene, guardami questo segnale anche tu. Guardalo bene, che così faccio un amplificatore a un'altra radio, così cambio radio. Sciavi! C'ho come su Google, mamma mia! Letta, guarda un attimino! 9:20 Radio 5! Oh. Eccomi qua, questa è una bella radio tu! Ma sai che c'è di più? Sì, lo so! Però la radio è migliore dell'altra! Mi piace più l'altra a me! Sì, vabbè, questa è un po' più della battaglia! Questo quando arriva? C'è più alto il segnale, 9:25. Solo, adesso vuoi più. Chiappa, 9:25 va a sbattere a 30. Ah, ecco, allora già va meglio, dai. Chiappa. Mi devo avvicinare anche se ho un mezzo gigo, compreso. E non è male come ti sono dipintato, Quanti anni hai dato? 37 anni. Quanto? 37 anni c'ho io. Aspetta, parla dopo un po' che io mollo. Che ha la portata ritardata questa. Allora, ho 37 anni. A 37 anni vedevo l'acqua a 10 centimetri, adesso non vedo l'acqua a un metro. Che cosa ti posso dire? Siamo tutti così in casa, mi pure mezz'oretta che più o meno ore di me fa i piccini. Va bene, dai, ho voluto provare questa cosa, cambio microfono e poi passavo le prove. Aspetta che sono mollato, questa è amplificata, sì. Eccomi, ho dovuto scendere giù per salire le scale. Piano piano. Gappa. Siamo tutti così, mio padre è veramente più grosso di me, va proprio di piccetti grossi, pure lui da ragazzo ha cominciato con quei tipi nuda. Mesuretta prima di me ha cominciato a pulirsi i piccetti. Siamo io. Va bene, dai. Guarda questa qua invece, Anton, questa è normale la radio? Gappa, questa è normale, va bene. Non distorge, non fa, no, va bene, lascio questo microfono. Non è amplificato però, vero? Ma si intendeva però, me. Vabbè, ma non è amplificato comunque come l'altro. No, negativo. Ok, va bene questo allora. Scappa, e io 9:10 sto arrivando a te. No, con questo no, Anto, perché questo hai led, non tocchi neanche 9. Vabbè. Poca potenza, non è che. Dai, cambia il radio, aspetta. Scappa, io scendo giù. Eccomi qua, gira tu, gira, fallo girare. Dimmi te. Io ho detto gira, fallo girare. Ho rimesso l'altra radio. Questo è quello, il classico, no? Quello... Il grande, dai. Ma l'altro era aiutato, beh. Sono baracchini da battaglia. Gappa, vabbè. Non so se scritto in occhi sui coglioni tu, che allora mamma mia ci può prendere nulla, no, sbagliato. Allora ho aumentato lati. No, vabbè, qua ho più ricezione e va meglio, non è come l'altra non arriva più neanche a 9, qua sì, quasi 9.10. Capo, ma adesso il segnale è aumentato, vero? Dai, 9.15 modulati. Capo, ma se non c'è un'altra fronda? Ora, non a vedere adesso. No, no, è rimasto lo stesso. Vabbè, abbassiamoci noi, no, qui. Ora. Già basta così, là. Ora. Questo è poco. E così dovrebbe andare bene, là. Ma guarda, non hai cambiato niente. Allora, quando è passato me ne sono accorto, però poi è rimesso con i picchi positivi, arrivi al segnale massimo, quindi lascia così, va benissimo. No, lo lasciamo così, se non sforza troppo, è finale. Va bene. Invece io quanto sto arrivando con questo? Ma 9.25 radio 5. L'altro invece tocca poi 30, va bene. Vabbè, io sono un po' più lontano di te. Cosa c'entra? Se io sto andando contro a te e tu stai andando a me, la distanza è la stessa, tu, capito? A meno che facciamo la prova con uno che è nella mia zona, allora va bene. Adesso ando, sono 20 watt e poi gli altri sono modulati, quindi sono andato a girarlo, raga. Andà bene. Capa, è vossichito, no, si rovina. Capa, no, già va bene comunque. Non bisogna, così già va bene. Quando attacco quello là invece cambia tutto, 9.25 da te, vero? Poi complichi i positivi, vai a 9.20. Allora, l'altro con cosa è pilotato? L'altro è con l'87. Con l'87, cos'è? Ma il banchino, l'87 col ZG, capito? BV131. BV131 quanto va? 120, no, quasi 180. Ehi, domani. BV131 l'ho avuto anche io. Non va oltre 200, guarda. Va a valvola americana, va. Ne ho qua che ne ha 5 di valvole, la 141, quindi la riconosco. Scappa. È diverso da quello normale, capito? Andà bene, là. Sì, già va bene, ma poi tanto va tutti di dire, dipende molto dalla posizione. Io ho perso tantissimo da quando ero alla Teodolce. La Teodolce, insomma, la zona era molto migliore più di questa che sono adesso, non è che. Quindi la conosco bene. E che ci abita adesso i tuoi genitori lì? No, lì ci abita mia sorella. I miei genitori invece sono andati dove abita la mia sorella. L'appartamento è un po' più piccolino e per loro va bene. Già un grido via, esce per la città. Eccomi. Lì era bello a Teodolce. Ci ho abitato pure io, però purtroppo per mia disgrazia avevo un'antenna piccola. Sì, vabbè, ma io già ce l'avevo un'altra, io avevo, l'antenna era già 7 metri, poi avevo 6 metri di palo più altre 4, quindi ci vedevo lontano. Già me lo ricordo io. Come cosa abitavo io prima? Giù, la Teodolce basso. Dietro Barsana praticamente. Sì, mi ricordo. Era bassa l'antenna, è vero? No, già era bella alta, già. Era bella alta e poi, insomma, c'era. Lo salivo su sopra l'antenna perché mi arrampicavo tipo le scimmie per mettere di fuori per levare. Vedevo tutto bello, tutto nei piedi, sembrava la città nei piedi, e trovo in basso. Vabbè. Anche quelli sono finiti i tempi. Allora, il mio palazzo dove abitavo io prima, l'antenna sul tetto, ce l'aveva un cibite allo Sacchi e si è morto pure. Parlateci a voce. Non chi è che ce l'aveva lì? Via Loro, ti rammenti? Dimmi la zona. In Piazza Bottego. Ah, Piazza Bottego. Piazza Bottego c'è la... Come c'è la cosa, la friccia? Me la buru Danilo, ti rammenti? Vabbè, io ho conosciuto la cosa lì. Sì, Danilo, c'è, capito. E non c'è più adesso. Sì, vabbè, non modula più, ma abita sempre lì. Ma qua non c'è ancora un pezzo. Sì che c'è. Spero che me lo dico. Già, eccomi qua. Già lo conosci, cioè se ti dico chi è, già lo conosci. E ce l'aveva proprio nel mio palazzo, ce l'aveva, la Montova Turbo, te lo ricordi? Adesso l'hanno colta. Se lo stesso Danilo che conosco io, l'ho conosciuto. Danilo abitava dall'altra parte, amico di Faccone. Ehi, Snoopy. Eia. Ce l'ho conosciuto. E ancora ce l'ha l'antenna, non è più entrata, è vecchia che nonno. Vabbè, vuol dire che... altro da fare. Oh, non è più, non ne ha voluto più sapere. Non funziona manco più questa antenna. Cosa ve dica? A me, diciamo, la passione tra virgolette, ho mollato per qualche anno, ma perché avevo altre cose da fare, ma la radio le avevo sempre, le accendevo sempre, ascoltavo, magari non avevo tempo di modulare, però ce l'avevo sempre le radio. Capo, pure babbo ha mollato per molti anni, ma non ne vuoi più sapere. Vabbè, arrangia di. Lo ci vuoi fare, poi la passione può anche svanire, non è che non c'è più voglia, insomma, dipende. C'è chi invece lo usa per compagnia. Capa, magari ci avrebbe fatto una chiacchierata con me, ci avrebbe fatto, invece, lui, vabbè. Se non ne vuole più sapere, non fare lì a costringere a fare tanto. O che glielo piazzi, se ne dice ne voglia, usalo. Se ti sente, entra e ti saluta. Ma se vuoi comunque sul cellulare, se fuzzo, va. La tecnologia. E da voi mi dite, io arrivo dove voglio, posso fare così. Grazie, chi c'è per buono burlaino? Prova a farlo con l'antenna, vedi. Ma non c'è più voglia, sicuramente, ora c'entra. Poi, ci sono tante cose di mezzo, perché se ti vuoi... se vuoi andare lontano, non è vero che basta solo un filo e una buona radio, cioè ci vogliono antenne anche per poter arrivare lontano, non basta un filo. No, vi vuole proprio l'antenna, vi vuole. Vabbè, lasciamo fare, tanto non mi interessa l'articolo. No, sì, nel senso che tu non... Sì, l'antenna nel balcone va, però... L'antenna sul tetto è un'altra storia, Certo. Quindi a me, per dire, piacciono molto le radio. L'antenna basta che si faccia sentire, va bene, però, come si dice, giustamente non è che metti un'antenna stupida, metti un'antenna che si faccia vedere, ma del resto a me, come occhio, come visibilità, come tatto, è la radio che ti piace vedere, non l'antenna. Ma se non vai l'antenna, ma con la radio esci. Guarda, l'unica antenna veramente da balcone che ha senso è la boomerang, quella grande, che funziona bene. Le altre, le ho provate, ma lasciano il tempo che trovano. Si è detto che ne ho una io, che è una Grand Prix nel container, pure vedi che va bene uguale, è bassa bassa. Sì, vabbè, se lo lasci libero nel container, lo lasci libero, va bene anche la Grand Prix, va bene. Io parlo di antenna da balcone, per me la boomerang è la migliore. Le altre le abbiamo provate, anche la Storm, cose. Lasciano il tempo che trovano, vanno ma lasciano il tempo che trovano. E l'antenna che va e chissà, perché l'ho provata e puntava. No, non sono del tuo parere. Com'è dal balcone sto partendo, cioè sto parlando. Io le ho provate altre, ma non sono stato soddisfatto. Ah, vabbè, io ho messo sempre sopra il tetto, quindi non ho... Ho provato anche a mettere la Grand Prix, ma non rende mai quanto a 50 e come la mano vado alle pratiche, che sono già altre antenne studiate per altre cose. Anche io mi allontano adesso, che inizio a preparare qualcosa per mettere su cliente più tardi. Intanto tu sei sceso a girare su, ti aspetto che sali, ti saluto e poi vado via, dai. Eia, ecco qua, sono salito. Va bene, dai, ti. Cioè, ce la sentiamo, dai. Comunque, quel discorso là, chi l'ho data io, perché c'avevo la boomerang, gli altri antenne non si viene a nulla, ma chi l'ho data, esce una gannunata da inchibi, esce, ma forte per ommi, perché con le altre non andava bene, ok, vai tranquillo. Ciao, magari stasera, ciao. Ciao.